aututeze mathela ho yena a ka o forisa mathata hoje morimo a ka o forisa a ka o forisa a ka o forisa manesu ditikitlano tsa le fatsena a ho ho a moya wa ha o le fatsi manesu o sa tsime moya Omo di mo wa me solo.